Posso andare? È il mio momento. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Piacere, non giochiamo sul comodino. Proseguiamo sto cammino. Entrata una zanzara qua dentro. Sta stronza. Incazzata. È una di quelle convinte. Anfibi, giubbotto di pelle. Anfibi, giubbotto di pelle. Il cammino di Gigi D'Agostino. Scrivermi o mandare delle dediche o che ne so, il numero per gli SMS è il seguente: due punti, cercate la penna, prendete il foglietto, questo è il numeretto: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Un messaggio importante a tutte le persone che mi hanno scritto, che hanno mandato delle dediche o dei saluti. Purtroppo non posso mandare sempre tutti i vostri saluti e tutte le vostre dediche il giorno stesso che mi arrivano. Perché sennò dovrei leggere messaggi dalle 6 alle 7 e non si ascolterebbe più la musica. Quindi io le leggo un po' per volta, vanno in ordine sparso, alcuni giorni ne leggo di più, alcuni di meno, e cerco di trovare un equilibrio, anche se non ci sono mai riuscito nella mia vita. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Chi non si vuole abituare a nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare. sotto una luce non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. Si sceglie e si decide insieme. Questo è il mio cammino, ma è anche il vostro cammino. Perché una gamba è la mia e l'altra è la vostra. E una gamba da sola non va da nessuna parte. Questi sono i passi del cammino di Gigi D'Agostino. Sabato sera, questo che arriva questa settimana, ore 22:30. Discoteca Altro Mondo, Rimini, Italia. È in Italia. Oggi già. Ci vediamo lì. Melissa, voglio fare un saluto alla mia amica Chiara. Gigi, faresti gli auguri alla mia ragazza che compie 22 anni? Si chiama Serena. E io sono Roberto. Sere, buon compleanno. C'è un messaggio da un girasole. Ti amo, Veronica. Il tuo girasole. Sono Giovanni da Montella, provincia di Avellino. Un saluto ad Emilio e Jessica. Ciao da papà.

Questa è una radio, non è un telegiornale. Non giochiamo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non siamo al reparto olive. Non è che siamo qui a snocciolare, eh? Oh! Agli altri il palo è la traversa. Gigi D'Agostino è lento, violento e viceversa. Agli altri il palo è la traversa. D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. Romagna, mica pistacchi, sti cacchi. Sabato notte, altro mondo, Rimini, ma cos'è stato? Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e anche a chi non c'era ma ci ha pensato. Mi vengono i brividi solo a ripensarci. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Di Gigi D'Agostino. Alla faccia di chi ci vuole male. Oh già già. We'll be right back.